La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e bentrovati a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Nella prima parte di questa puntata, Dino Pesole dedica il suo approfondimento alle polemiche suscitate dal film Miracolo a Sant'Anna, l'ultimo lavoro di Spike Lee, in cui il regista racconta la strage compiuta dai nazifascisti il 12 agosto 1944 a Sant'Anna di Stazzema. Ospite ai nostri microfoni, lo storico Lutz Klinkhammer. Nella seconda parte, invece, vi proponiamo un radiodocumentario in collaborazione con History Channel sul disastro del Vajont. A Sant'Anna di Stazzema, piccolo centro in provincia di Lucca, teatro di una delle più cruente stragi compiute dai nazifascisti dopo l'8 settembre del 43, le ferite sono ancora aperte. I parenti dei 560 civili che vennero trucidati il 12 agosto del 1944, i pochi superstiti ancora in vita dell'eccidio, hanno reagito con sdegno al nuovo film di Spike Lee, Miracolo a Sant'Anna, tratto dall'omonimo romanzo di James McBride. La memoria non si cancella, la resistenza non si infanga, era scritto su uno striscione comparso nei giorni scorsi a Viareggio nel corso di una manifestazione svoltasi davanti al cinema Politeama. Nel film del regista americano, questo, per così dire, il capo d'accusa, si tende in qualche modo ad accreditare la tesi che nella rappresaglia contro i civili messa in atto dai nazifascisti una responsabilità la ebbero anche i partigiani, che, parole di Spike Lee, non erano amati da tutti. C'erano anche quelli che dopo aver fatto qualche azione scappavano sulle montagne, lasciando la popolazione civile a subirne le conseguenze. Ne è nata un'accesa polemica, sono scese in campo le associazioni dei partigiani e anche l'ex partigiano Giorgio Bocca, che sulle colonne della Repubblica ha contestato duramente il film. Spike Lee ha un'idea, sia pur labile, di cosa sia la guerra partigiana in ogni tempo e in ogni luogo? È ricorrere alla sorpresa, evitare di essere agganciati da un nemico superiore in numero e armi, mordere e fuggire al duplice intento di far male al nemico e di sopravvivere. Questi sono i fondamentali di ogni resistenza armata. L'alternativa è una sola: rinunciare alla lotta di liberazione ed accettare l'attesismo che fa comodo all'occupante. Nel film si sostiene la versione falsa che la strage di Stazzema, le centinaia di donne e bambini trucidati, fu colpa di una sentinella partigiana che non aveva avvisato i compagni dell'arrivo delle SS. Spike Lee ha replicato così: la stampa ha gonfiato la polemica. Il mio film vuole essere una sorta di parente stretto del neorealismo, in particolare delle opere di De Sica e Rossellini, a cui mi sono apertamente ispirato. All'inizio del film c'è una didascalia in cui si dice chiaramente che è una finzione ispirata a un fatto storico. Io ho voluto portare alla ribalta un episodio tragico e poco conosciuto della vostra storia e sono ben contento che attorno ad esso si sia creato un dibattito acceso che mira a fare luce su quell'eccidio. Con i partigiani non ho alcun attrito e anzi li apprezzo profondamente per ciò che hanno fatto. Le reazioni viscerali di questi giorni mi fanno pensare che la profonda ferita apertasi in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale non si sia ancora rimarginata. La dinamica dell'eccidio non si presta del resto a interpretazioni di sorta. Quella mattina del 12 agosto del 1944 fu compiuta una strage che mirava proprio a colpire la popolazione civile inerme. L'eccidio fu compiuto con una violenza inaudita. Furono quattro le compagnie della 16ª divisione Reichsführer, comandate dal capitano Anton Galler, a compiere la strage. In tutto 200 SS. L'eccidio ebbe inizio alle 7:30 del mattino. Poco prima di mezzogiorno era tutto finito. 560 le vittime, donne, anziani, bambini. Le case vennero date alle fiamme, i civili ammassati e trucidati. Non vennero risparmiati neanche i neonati e le donne incinte. All'eccidio presero parte anche fascisti italiani, come è emerso chiaramente dalle numerose testimonianze dei sopravvissuti. Vale peraltro la pena di ricordare che il 22 giugno del 2005 il Tribunale Militare della Spezia ha emesso una sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti di 10 imputati della strage ancora in vita. Sentenza che è intervenuta a oltre 60 anni dalla strage, non esecutiva visto l'età avanzata degli imputati, ma pur sempre significativa, non fosse altro perché, quantomeno, ha offerto un risarcimento morale, certo tardivo, ai parenti delle vittime e alla memoria di quanti persero la vita. Il film ha riaperto quelle ferite. Rimasto che sa. Abbiamo in linea lo storico Lutz Klinkhammer, che è autore di diversi saggi, tra cui ricordiamo un libro sull'occupazione tedesca in Italia, libro sulle stragi che è uscito di recente anche in una seconda edizione, e poi proprio recentissimo in questi giorni in libreria un saggio scritto insieme a Olivier Jans dal titolo La morte per la patria, pubblicato da Donzelli. Grazie prima di tutto per aver accettato il nostro invito. Piacere. Allora, intanto lei ha avuto modo di vedere il film? Sì, l'ho visto proprio ieri e mi ha fatto una grande impressione, cioè mi sembra dal punto di vista artistico, come spettatore, un film esteticamente, artisticamente veramente ben fatto, quindi vale proprio la pena di vederlo. Certo, dal punto di vista storico è un discorso molto più complesso. Ecco, a questo proposito è nata una polemica, soprattutto per l'interpretazione che il regista Spike Lee ha dato, diciamo, rispetto alle motivazioni che avrebbero indotto i nazifascisti a compiere quella strage. La strage ricade assolutamente ed esclusivamente sugli assassini nazisti, quel reparto della divisione SS Granatieri Corazzati, della sedicesima divisione SS, che era intitolata al capo dell'SS Heinrich Himmler. Il capo del secondo battaglione era Anton Galla, e lui potremmo, credo, considerare il massimo responsabile per la strage. Ecco, l'intensità delle polemiche che ha originato questo film, ancora una volta però mette in luce un problema. In Italia, evidentemente, a una distanza così ampia di anni rispetto a questi tragici eventi, ancora non si è arrivati, come dire, a una sorta di ricomposizione, almeno su una storia condivisa, non fosse altro che sulla memoria condivisa. Sì, tra l'altro l'Italia forse non è l'unico caso. Se vediamo che in Germania in questi giorni è stata una commissione tedesca, di storici tedeschi, ha stabilito per la prima volta la cifra quasi esatta dei morti nei bombardamenti alleati su Dresda, vediamo che anche in altri paesi il dibattito e la ricerca storiografica possa tardare. Direi che il film fa vedere la grande complessità della vicenda italiana della guerra di liberazione, della guerra civile in Italia in questi mesi, in quella zona della Toscana. Non è per niente un film unilaterale, fa vedere quasi le tensioni tra tutti i gruppi presenti, le tensioni nell'esercito americano, tra reparti neri come la 92esima divisione e con gli ufficiali bianchi che talvolta si comportano da veri razzisti. Fa vedere i conflitti all'interno dell'esercito tedesco. Infatti si fa vedere che due disertori tedeschi praticamente vengono uccisi, e lo stesso vediamo nel comportamento della popolazione italiana, che è suddivisa tra partigiani, sostenitori dei partigiani, dei fascisti di vecchia stampa, fascisti della Repubblica Sociale. Quindi tutta questa complessità vediamo bene. L'unico problema che, e da lì sono anche nate le polemiche di questo film, è che il caso di Sant'Anna ha un carattere evocativo. Sì. E quindi è un avvenimento che viene citato in maniera evocativa ed è un elemento centrale, certo, della guerra in Italia. Se Spike Lee invece di Sant'Anna avesse messo un'altra località, sarebbe stato un film ineccepibile. Sì. Però così praticamente interpreta la storia di Sant'Anna in maniera sbagliata, quasi diventano una falsificazione dell'avvenimento nel caso Sant'Anna stessa. Certamente lì dipende molto dalle esigenze del copione, credo che per superficialità un po' l'autore del libro abbia messo insieme gli avvenimenti del fiume Serchio con la strage di Sant'Anna, e in questa maniera per la trama è diventata una ricostruzione in questa maniera che fa un legame tra partigiani, che traditori fascisti, tra nazisti assassini e esercito alleato, gli americani neri che avanzano, e crea un'unica storia con elementi fittizi naturalmente, ma in alcuni casi in maniera molto molto veritiera, cioè il massacro stesso davanti alla chiesa di Sant'Anna riguarda praticamente, è una ricostruzione quasi esatta di come possiamo ricostruire gli avvenimenti, e questo crea una correlazione squilibrata tra un'estrema precisione da un lato e dall'altro un'interpretazione assolutamente fuorviante come quella della strage indotta evidentemente da un traditore italiano. La storia e la memoria. Bentornati alla Storia e la Memoria. Ricorreva giovedì il 45esimo anniversario della frana che la notte del 9 ottobre 1963 si scaricò nella diga del Vajont, distruggendo il paese di Longarone nella Valle del Piave e provocando più di 2000 morti. Vi proponiamo ora un radiodocumentario in collaborazione con History Channel in cui superstiti e soccorritori ricostruiscono il disastro. Alle 22.39 del 9 ottobre 1963, una frana valutata in 270 milioni di metri cubi di terra e roccia si stacca dal Monte Tonk e precipita nell'invaso artificiale creato dalla diga del Vajont. La caduta della frana solleva un'onda di 200 metri che scavalca la diga. Nel giro di pochi minuti, 50 milioni di litri d'acqua si abbattono sull'abitato di Longarone, situato ai piedi della diga. Longarone e le sue frazioni di Rivalta, Faè, Virago e Villanova vengono quasi completamente distrutte. La storia del Grande Vajont comincia il 15 settembre 1943, quando la Sade, l'azienda elettrica privata di proprietà del conte Volpi di Misurata, già presidente della Confederazione Fascista degli Industriali, ottiene dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici l'autorizzazione al progetto di costruire una diga che sbarri il corso del torrente Vajont, creando così un bacino artificiale nella valle da sfruttare per la produzione di energia elettrica. Il 21 marzo del 1948 il nuovo governo repubblicano conferma la concessione alla Sade, che nell'aprile del 1957 presenta un nuovo progetto molto più grande del precedente. Quella del Vajont sarà la diga ad arco più grande del mondo. Alla fine del 1959 la diga è costruita e nei primi mesi del 1960 il grande lago comincia a formarsi. Ma c'è un problema. Il Monte Tok, la montagna sul cui fianco si appoggia una spalla della diga, è un monte soggetto a frane. Lo dice il suo nome stesso, che deriva da Patok, che in dialetto friulano vuol dire marcio. La Sade lo sa, ma fa di tutto per nascondere i dati. Spera che la frana si stacchi un po' per volta, senza pregiudicare la diga e l'invaso. Ma quando nel dicembre del 1962 viene approvata la legge che istituisce l'Enel e nazionalizza l'energia elettrica, la Sade ha fretta di concludere il collaudo per poter vendere la diga allo Stato. Il 9 ottobre 1963 accade quello che di solito si definisce l'inevitabile, ma che nel caso del Vajont doveva e poteva essere evitato. A me ha portato via gli anni più belli. Molte volte ho cercato di raccontare A me, prima di tutti, e poi anche agli altri, ma non ci sono mai riuscito. Hanno ammazzato 2000 persone e hanno rovinato la vita di chi è rimasto, perché da una cosa del genere uno non esce più. La notte del Bayont è stata tremenda, però anche i giorni dopo, i mesi dopo, gli anni dopo sono stati altrettanto duri. In questi 45 anni ho rincorso vanamente il desiderio di voltare la pagina, come si suol dire, di chiudere un libro, di chiudere una storia. Sono passata da una depressione all'altra, poi ho anche cercato di farla finita in realtà. Quando stanno scavando, ad esempio, ho sempre quella sensazione di andare a vedere cosa stanno scavando. Forse c'è qualcosa di mio, forse c'è qualcosa della mia casa. Questa valle è situata all'estrema periferia della regione Friuli Venezia Giulia. Confiniamo con il Veneto, la zona dove è stata costruita la diga è quasi esattamente il confine. Questa valle ha come sede municipale, nucleo principale, Erto. Casso è la frazione più importante del comune ed è situata verso la periferia del territorio, verso Longarone, in un territorio marginale. Noi di questa diga avevamo tutti paura, perché era una cosa proprio che avevamo sopra la testa, diciamo, è una massa d'acqua tremenda. La sorella mi diceva sempre, specialmente negli ultimi tempi, che la gente era spaventata perché dicevano che la montagna stava franando. Un ingegnere era alloggiato da mia nonna e prima di partire, quando aveva finito il suo lavoro, ha detto: si ricordi bene, signora Fosca, la diga terrà perché è fatta a regola d'arte, però la montagna cederà e farete la fine dei topi. Io avevo un rapporto di lavoro con la diga, avevo una macelleria e fornivo le mense operaie lassù in cantiere. 2 mesi prima, mentre consegnavo la carne alla cuoca, dal Monte Toc, che era di fronte, si è staccata una fetta di montagna caduta nel lago e ha sollevato un'onda che l'ha attraversato ed è venuta a sbattere proprio sotto il pavimento della cucina. Quello che mi ha allarmato è che un paio di giorni dopo torno su per fare la solita consegna e non trovo più la cuoca. Si era licenziata, sapevo che aveva paura. L'8 ottobre ormai tutti sapevano, Enel, Sade, Ministero, Genio Civile, tutti sapevano che la frana del Vajont sarebbe scesa. Era questione o di giorni o di ore. Tutti sapevano che sarebbe scesa, che era enorme, che poteva provocare una catastrofe inimmaginabile. Ma nessuno prese decisioni. Perché? Perché per prendere un provvedimento del genere ci voleva una relazione con tanto di firma e di timbro. E nessuno si è preso la responsabilità fino all'ultimo. Quella sera io avevo intenzione di andare a vedere la partita per televisione. In quel periodo la televisione non era in casa, ma era presso i 2 bar che c'erano nella frazione di Pirago. Io ho detto a mia madre che sarei andato a vedere la partita. Lei si è arrabbiata perché era a casa da sola. Abbiamo litigato. Io alla fine ho ceduto e sono andato in camera mia. Dopo aver cenato insieme ai miei genitori e un paio di fratelli, mi sono recato dalla fidanzata che abitava in una delle poche case rimaste a nord del paese e mi sono messo tranquillamente in salotto, in poltrona, a guardare la famosa partita del Real Madrid contro i Rangers, Glasgow, finale Coppa Campioni. Si sentì quello che tutti abbiamo sentito di Longarone, questo enorme rombo d'acqua via via crescente. Si capiva che era acqua e che proveniva proprio dalla valle del Vajont. La frana del Vajont è scesa tutta ad un pezzo, compatta. Dopo 12 secondi dal distacco aveva raggiunto la velocità di 90 km all'ora. Pensate che hanno calcolato che abbia spostato una massa d'acqua di 50 milioni di metri cubi. Quando ho sentito questi rumori sbattere le imposte, lampi, eccetera, sono uscito di corsa, ho guardato verso la valle del Vajont, c'erano le cavallette dell'alta tensione che mandavano bagliori improvvisi, c'era qualche urlo in lontananza e ho pensato di scappare, perché il primo istinto era di scappare per mettermi in salvo. Quella parete che è leggermente inclinata verso il lago è stata la salvezza del paese di Casso. Poi l'acqua è tornata indietro, perché non ha potuto andare da altre parti, è tornata indietro e si è divisa in due parti. Una parte è andata verso est e tutte le frazioni di erto che ha incontrato sulla linea retta le ha spazzate. Erto si è salvato perché si trova dietro il costone della montagna. La seconda parte dell'ondata si è diretta verso la diga. Ha trovato la diga inclinata verso l'esterno, un trampolino. Ha battuto con violenza sulla diga, si è alzata di oltre 100 metri e poi si è incanalata nel canyon. Il canyon è stretto, è profondo, non ha lasciato sfogo all'acqua. L'acqua ha acquistato velocità e potenza inaudite. Una massa d'acqua alta 70 metri, una valanga d'acqua. La potenza che si è sviluppata nel momento dell'impatto è stata pari a due volte la bomba atomica che ha distrutto Hiroshima nel 1945. E io sono arrivata a metà del corridoio, la casa ha tremato, mi sono girata per dire cosa sta succedendo, cosa facciamo, e mi è arrivata la sberla dell'acqua. Mi sentivo sbattere destra e sinistra dall'ondata, logicamente bevendo acqua, e poi l'acqua facendo risucchio, tornandosene fuori dalla casa, ci stava portando all'esterno. Io ho avuto la sensazione di girare sempre in tondo, diciamo. Infatti è vero, perché le pareti sono rimaste su, quindi probabilmente io giravo a imbuto, diciamo, no? A un certo punto cominciava a mancarmi il respiro e io ho detto, beh, speriamo di finire in fretta. Sono stato così scaraventato su qualcosa di solido, una trave, un detrito, invece era la mamma, quindi ho preso anche la mamma, così l'ho potuta salvare cercando di non farla uscire dalla casa. E mi è andata bene che sono imbattuto contro un mio amico che era nelle mie stesse condizioni. Abbiamo raggiunto una strada laterale un attimo prima che passasse l'onda grossa che è arrivata fino al centro del paese. Lì ci siamo ritrovati completamente al buio, perché era un buio pesto. Io ero in servizio in ambulanza quella sera. Il capo servizio ci ha mandati subito, io e il mio collega, con l'ambulanza alla volta di Longarone, perché è arrivati a Faè, paese appena dopo Fortogna, lì ci siamo dovuti fermare perché la strada non c'era più. Avevo le gambe impedite da una trave, ero sotto il materiale e continuavo a gridare mamma vieni a prendermi, aiuto mamma vieni a prendermi, perché pensavo che fosse crollata solo la mia stanza. Cioè, a un certo momento ho visto cominciare ad arrivare delle lucette piccole. Mi sono messa a urlare, a chiamare aiuto, e ho sentito che lo diceva, le urli vengono da questa parte, probabilmente cercavano la direzione per arrivare. Mi hanno tirato fuori, mi hanno appoggiato a fianco, diciamo, della casa, e poi pian piano hanno tirato fuori il resto della famiglia. Non si sapeva di preciso cosa era successo, si sentiva sotto i piedi acqua e fango, si andava a tastoni, ci si trovava tra le mani qualche cadavere. La storia e la memoria. La frana, caduta nella notte nell'invaso artificiale da poco costruito, ha creato un'onda d'acqua che, con inaudita violenza, si è riversata sui paesi circostanti. Le prime luci dell'alba mostrano ai sopravvissuti e ai soccorritori le dimensioni reali della catastrofe. Una distesa di ghiaia e fango sotterra le case e le strade di Longarone. Il paese non esiste più. Quando è cominciato l'alba si è visto bene la grande buca che ha scavato il salto dell'acqua e questo spettrale panorama con la sabbia sopra e più niente in piedi. La sensazione che abbiamo avuto, no, è stato come quando una bomba di grosso calibro esplode e poi attorno è il silenzio, il grande silenzio. La morte e basta, un grande silenzio, il vuoto. Vicino all'acqua il fiume El Mael, proprio nel retto del fiume, una giovane donna aveva indosso soltanto il cinturino e il reggiseno. non aveva nessun vestito, come d'altronde tutti erano completamente nudi. Non so se è stata l'acqua o l'aria, il spostamento d'aria che li ha spogliati completamente. Ed era una donna in procinto di partorire, una scena agghiacciante. Il primo giorno alla mattina alle 10, scavando, un soldato trova una gamba. Nessuno per tutto il giorno l'ha voluta mettere nei sacchi con altri morti perché uno non avesse tre gambe. Ho dovuto aspettare la notte e alla notte l'ho infilato chiaramente dentro un altro sacco. I nostri soldati, dopo i primi giorni, hanno cominciato ad avere difficoltà. Non volevano venire o non volevano essere davanti a individuare morti. Vomitavano, non mangiavano, ma era micidiale la reazione di quei soldati ventenni a vedere un disastro così grande. Ho visto una culla con un bambino piccino, tutto nudo, sembrava Gesù Bambino. Ricordo che l'ho preso per un braccetto, una gambetta, e l'ho passato fuori dalla finestra. Di accanto c'era sua madre, una sposetta giovane, probabilmente il primo figlio. All'indomani del disastro, molti giornalisti arrivano sulla piana deserta di Longarone. Il quotidiano La Stampa inviò Giampaolo Pansa. Questo il suo racconto. Mentre camminavo sulla strada che portava a questa landa lunare, a questo territorio ormai diventato un mare di fango e di pietre, che era il paese di Longarone, ho incontrato la squadra degli inviati del giorno. E lì uno di questi inviati, Guido Annozzoli, si è fermato e mi ha detto: chi sei? Io ho detto: sono Giampaolo Pansa. Di che giornale sei? Della Stampa. Quanti anni hai? 28 anni. Allora Nozzoli, un romagnolo tarchiato, molto grintoso, mi dice: allora tu la guerra non l'hai fatta e nemmeno vista. No, non l'ho vista. Vai avanti che la vedrai. Mentre pronuncio queste parole mi vengono ancora i brividi, perché era come un avviso: attenzione che quello che tu vedrai a Longarone, sei un ragazzo che non ha visto i disastri della guerra, quindi le città bombardate, i morti per le strade, quello che tu vedrai è uno spettacolo orrendo che non hai mai incontrato, ed è effettivamente quello che ho visto arrivando a Longarone. Cosa avevano cominciato a fare su pezzi di Longarone? Avevano cominciato a dare dei nomi a pezzi di questa spianata, cioè i nomi erano il cognome del proprietario della casa che era sparita, e avevano fatto tanti picchetti, cioè paletti di legno con dei cartelli scritti a mano, con i cognomi. A volte stavano molto incavolati con noi giornalisti, stavano infuriati perché ci vedevano come l'espressione di un'Italia che non aveva saputo evitare questo diluvio universale, e ci tiravano pure le pietre. La scena era di gente arrabbiata, sconvolta, che diceva: ma perché? Ma perché? Si sapeva, ma perché? E ben dove sono le mie cose? E ognuno di loro cercava un qualche segno di ricordo dei propri parenti, dei propri familiari scomparsi. Urlavano, bestemmiavano, ne facevano un po' tutte, povere, ma comprensibilissimo, perché è stata una disgrazia immensa. Io ho incontrato la mia compagna di giochi, che mi ha detto: non andare, perché lì non c'è più niente. Ho proseguito, e quando sono stata sopra il colle Vienna ho visto che c'era tutto un ghiaione, basta, tutto bianco. È stato come un colpo di spugna. La mattina dopo era il lago pieno, si vedevano materassi, suppellettili, legna, in mezzo cadaveri. E poi era l'impressionante i corvi, questi corvi che io non li ho più sopportati da quel giorno. Il problema era dove mettere i morti, i cadaveri che si trovavano. Dopo due giorni, sì, i pompieri si sono un po' organizzati con le ruspe, hanno fatto lo spazio in mezzo a un campo di mais, hanno fatto delle fosse lunghe comuni. Lì c'era un'organizzazione di militari fatta così. Loro avevano le panche dove appoggiavano sopra tutti quanti i morti, no? Li lavavano con l'idrante, li fotografavano di fronte e di fianco, e poi li mettevano nelle casse. Aspettavano tutti quanti di sapere un giorno o due che non venisse i parenti, avevano un numero, venisse qualche parente a riconoscere, dice questo è mio fratello, mio papà, mia nonna, mio nipote, no? E allora quelli gli davano il nome e il cognome e poi li seppellivano. Ma gli altri non riconosciuti, più della maggioranza di quelli trovati, sono stati sepolti senza nome. Inizialmente non si aveva manco il coraggio di vedere. Ma purtroppo passavano, era come un film, passavano sotto gli occhi tutti questi cadaveri, da pensare che io bastava che vedessi una puntura svenivo. È una roba scioccante. Le prime salme non avevo la forza di continuare, poi sempre con la speranza di trovare mia sorella, mia madre, i nonni e le altre persone care, mi dava come una forza. A un certo punto hai la sensazione di essere una bestia. Più ne vedi e meglio è praticamente, perché più la possibilità era grande di trovarli. Di ogni cadavere registravano una scheda con le fotografie del morto, con tutti i dati, perché chi cercava i propri parenti e non li trovava potesse esaminarli. Allora si è aperta una sala della prefettura di Belluno con dei grandi tavoli su cui si accumulavano queste schede, ed era una cosa pazzesca, perché era una specie di mostra dell'orrore umano come me non era mai successo di vedere. Le ricerche sono sempre più adesso più o meno più difficili, ma si pensa sempre una speranza di poterle ritrovare sugli oggetti, sulle vere, le collanine, gli orecchini, qualche cosa insomma che si riconosce che aveva addosso a prima. Io sto a cercarla, perché dimani mia nipote possa dire qui riposa tua mamma e tuo papà assieme, e così non trovarla non possiamo dire così. Abbiamo trovato la bambina di 6 mesi, l'hanno pescata sotto Belluno a Limana nell'acqua. Abbiamo trovato il bambino di 10 anni e mio zio, l'hanno seppellito a Fortogna, ma mia mamma diceva quello lì non è mio fratello. D'altra parte erano deformati, tanti irriconoscibili. Il problema è che è stato ritrovato e riconosciuto soltanto mio papà. Degli altri non so assolutamente niente, li ho cercati per tanto tempo. Io, a dire la verità, continuo a cercarli. I miei genitori non sono stati trovati. Noi dormivamo praticamente a fianco, c'era una paretina che ci separava, eppure non so perché. Nei giorni e nelle settimane successive tutti gli altri non sono mai stati più ritrovati. Si pensava che fossero sul fondo del lago, ma un anno e mezzo dopo, è stato svuotato il lago per ripristinare lo scarico di fondo, e anche nel fondo del lago mi pare che sono stati trovati i resti di 2 sole salme. Anche i politici non venivano accolti bene. Io mi ricordo quando arrivò Leone, il capo del governo, e quando Leone, il capo del governo, disse gente del Vajont avrete giustizia, non è che l'hanno applaudito. 6 o 7 giorni dopo il disastro è venuto a Longarone Giovanni Leone, che era anche un noto penalista. Prima di partire in aereo il vice sindaco Arduini gli aveva detto: eccellenza, guardi che noi non siamo qua che vogliamo vendette, ma giustizia sì la vogliamo. E lui ha risposto così perentoriamente, ha detto giustizia sarà fatta. Me le ricordo queste parole, perché sono cose che è come il rumore di quella sera, e perché fanno rumore anche queste frasi. Quel signore là nel 69 al processo dell'Aquila era l'avvocato difensore dei responsabili della tragedia e ci aveva promesso giustizia. Noi vogliamo che Longarone sia ricostruita dove era. Purtroppo della gente in giro ci biasimano e ci dicono che ci hanno mandato degli indumenti, delle cose che noi non chiediamo, l'elemosina, ma bensì prima di tutto la tranquillità, il benessere e il lavoro. Avevano deciso di ricostruire il paese di Longarone da un'altra parte. Ecco, noi longaronesi ci siamo ribellati a questo. E si pensava che una volta abbassato il lago si potesse rientrare, perché in gran parte delle case di Erto erano rimaste in piedi. Non è stato così, perché nel frattempo sono subentrati interessi diversi, sia da parte dell'Enel, che mirava ancora a utilizzare l'acqua, e la gente ovviamente dava fastidio perché si diceva, era sulla bocca di tutti, via la gente, via i problemi. E poi ci hanno anche attirato con promesse di darci un lavoro nelle industrie, con promesse di andare nella pianura dove non c'era più la necessità di faticare per sopravvivere, dove ci promettevano una casa nuova con tutte le comodità. E purtroppo molti sono caduti in queste promesse, compresi anche gli amministratori del comune. Ma una parte degli abitanti ha lottato, lottato significa realmente lottare anche fisicamente, forzando i posti di blocco, forzando i divieti, per riconquistarsi il diritto a ritornare ad abitare sulla sua terra e nelle loro case. Noi 45 anni non abbiamo mai parlato di quella notte in maniera assoluta, non ci siamo mai guardati negli occhi, abbiamo parlato mai. Questo proprio perché, sapendo che tipo di dolore, quanto dolore, uno ha difficoltà a chiedere all'altro parlami, sapendo comunque cosa comporta. Prima di chiudere vi segnaliamo che il documentario appena trasmesso andrà in onda domani, lunedì 12 ottobre alle 23 su History Channel, col titolo Vaillant, l'immagine dell'orrore. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Laura Marchesi. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte. Il radiodocumentario prosegue subito dopo gli aggiornamenti sul traffico, ma tra poco. No. La storia e la memoria torna tra poco. Restate con noi.